Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Banche, nuova autodifesa del governatore Visco. La nostra vigilanza è stata ferma e intensa. L'ABI dice chiudere le inchieste e voltare pagina. Stabile l'occupazione in settembre, scendono i contratti a tempo indeterminato, risale la disoccupazione giovanile. Crolla un tunnel nucleare in Corea del Nord, ci sarebbero 200 morti, timori per fughe di radioattività. Catalogna, il presidente Puigdemont a Bruxelles si prepara a parlare, è attesa per sapere se chiederà l'asilo politico. Russia Gate, metà dell'elettorato americano ha visto su Facebook messaggi di propaganda di origine russa. Champions League, stasera in campo la Juventus e la Roma, domani tocca al Napoli. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Dall'altra parte del vetro ci sono Miriam Lucchetti in assistenza in redazione, Filippo Aureggi in regia e i numeri sono sempre gli stessi, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Potete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Radio 24 per la diretta video e se volete potete commentare anche là. Iniziamo dunque la giornata parlando di economia e della giornata del risparmio con la questione bancaria che resta al centro della scena. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. 93esima giornata del risparmio con la prima uscita pubblica dopo la sua riconferma del governatore Ignazio Visco, caldamente applaudito dalla platea di banchieri ed esponenti delle fondazioni bancarie. Non esiteremo a dar conto del nostro operato, dice il numero uno di Palazzo Coca e torna così sulle polemiche riguardanti la vigilanza sugli istituti bancari, rivendicandone la correttezza. Allora sentiamo questo passaggio. La tutela del risparmio richiede stabilità monetaria e stabilità finanziaria. Le decisioni e gli interventi di Banca Centrale e di Vigilanza le perseguono con determinazione. Sui comportamenti delle singole banche la supervisione è ferma e intensa. Del nostro operato non esitiamo a dare conto alle istituzioni e al Paese. La vigilanza, dice ancora Visco, non può annullare la probabilità che si verifichino crisi bancarie, può solo ridurla, non può sostituirsi agli amministratori, non ha poteri di giudice e polizia, insomma non può fare miracoli per il governatore. Poi ci sono stati ritardi nella soluzione delle crisi bancarie e su questi ritardi vanno accertate le responsabilità. Ad aprire la giornata è stato il presidente Lacri Guzzetti, secondo il quale la nomina di Visco è avvenuta con polemiche, dice, di cui non si sentiva il bisogno. Dopo Guzzetti la volta del presidente Labi Patuelli, si concludano presto le inchieste sulle crisi bancarie e si volti pagina al più presto, ha detto. E a concludere la mattinata il ministro dell'economia Padoan, secondo il quale c'è un clima positivo della nostra economia, ora bisogna insistere sulle scelte per consolidare la ripresa senza autocompiacimento. Ed ora è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Restiamo sui temi economici perché sono di questa mattina i dati sull'occupazione. A settembre la disoccupazione in Italia resta ai minimi da 5 anni all'11,1%, invariata rispetto ad agosto, ma quella giovanile sale al 35,7%. E quanto certifica l'Istat, evidenziando che dopo l'incremento degli ultimi mesi, a settembre il numero di occupati aumenta di sole 2.000 unità, colpa del calo dei lavoratori permanenti, meno 18.000 rispetto ad agosto. Stabili invece i dipendenti a termine, in crescita gli indipendenti, una tendenza più o meno confermata su base annua, nel senso che da settembre 2016 l'occupazione cresce, ma quasi esclusivamente per i contratti a termine, più 361.000 contro il più 26.000 dei posti fissi. Soddisfatto il ministro Poletti, che parla di stabilità del mercato del lavoro con quasi 1 milione di posti creati da febbraio 2014, dei quali 535.000 permanenti. Resta da migliorare la condizione dei giovani, dice il ministro, per questo abbiamo previsto misure specifiche nella legge di bilancio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo agli aggiornamenti dalla Corea del Nord perché è notizia di poco fa quella diffusa dall'agenzia sudcoreana secondo la quale un tunnel di un sito nucleare sarebbe crollato. Notizia in realtà fatto che sarebbe avvenuto una ventina di giorni fa, ma i dettagli sarebbero emersi solamente oggi. Ci colleghiamo con Tokyo, con Stefano Carrer per un aggiornamento. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. In realtà è stata la giapponese TV Asahi a lanciare per prima la notizia che potrebbero essere morti fino a 200 nordcoreani nel crollo di un tunnel che era in costruzione presso il sito per test atomici di Punggye-ri, Un centinaio di lavoratori inizialmente avrebbero perso la vita, un altro centinaio soccorritori per via di un secondo crollo. Quindi al di là della tragedia in termini di vite umane, ovviamente la preoccupazione è che possa essere fuoriuscito un materiale radioattivo, ma in realtà le notizie sono ancora da confermare. Le fonti alle quali ha attinto la TV giapponese non hanno precisato, come hai ricordato, la data del disastro, che dovrebbe essere stato appunto tempo fa, non lontano dall'ultimo test atomico che è stato del 3 settembre scorso. C'è da dire che gli esperti avvertono da tempo che dopo questo ultimo test, il sesto, il sito che si trova sotto il monte Mantap è diventato molto pericoloso. Un altro eventuale test atomico, che sarebbe il settimo effettuato dalla Corea del Nord, porterebbe quasi sicuramente a crolli e contaminazioni radioattive che si estenderebbero probabilmente anche al di là del territorio della Corea del Nord. A voi la linea. Ti ringrazio, grazie a Stefano Carrer, corrispondente del Sole 24 Ore da Tokyo. Veniamo alla Catalogna, perché proprio in questi minuti sta parlando il presidente catalano Puigdemont, che come ormai sapete è a Bruxelles. Sergio Nava, per fare un punto, Sergio. Sì, buongiorno Simone. Sentiamo subito allora quali sono state le prime parole di Carles Puigdemont da Bruxelles. Che divendres vam acordar unanimamente col governo. Allora, Puigdemont ha iniziato con un veloce excursus su quanto è successo lo scorso venerdì dopo la dichiarazione di indipendenza. Abbiamo capito che il dialogo e la mediazione con il governo spagnolo erano ormai impossibili, ha detto. Per questo abbiamo avviato il processo di indipendenza catalano e ha accusato il Partito Popolare e il Partito Socialista spagnoli hanno un problema gigantesco che non vogliono risolvere in modo politico. Poi ha precisato: avremmo potuto iniziare una disputa con Madrid per l'egemonia, ma abbiamo deciso di non avviare un confronto basato sulla violenza, perché non volevamo tra l'altro mettere i nostri funzionari della Generalitat catalana in una difficile situazione. E ha aggiunto: la Repubblica catalana sarà per questo un paese diverso, non vogliamo comportarci come lo Stato spagnolo. Accusa Puigdemont il procuratore Mazza, dice, ha confermato la linea dura del governo, le denunce contro di noi perseguono un'idea delle persone, non perseguono dei reati. Dopodiché proprio in questo momento Puigdemont sta spiegando la strategia che il governo catalano intende seguire nei prossimi giorni. Una parte del governo, ha detto, si è trasferita a Bruxelles per portare il problema catalano nel cuore dell'Europa e per denunciare la politicizzazione della giustizia spagnola. Una parte del governo, tra cui invece il vicepresidente catalano Junqueras, continuerà sul territorio per esercitare le proprie funzioni legittime, ma ha poi precisato Puigdemont: non intendiamo sfuggire, non intendiamo sottrarci alle nostre responsabilità dal punto di vista della giustizia. In questi istanti Puigdemont sta dettagliando le altre misure che il governo catalano intende seguire nei prossimi giorni. Ovviamente torneremo a informarvi su questo. Ti restituisco la linea. Grazie a Sergio Nava per questo aggiornamento. Veniamo alla politica italiana. L'attenzione resta naturalmente concentrata sulle elezioni siciliane, ma non solo su quelle. Un punto oggi con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, Simone, le elezioni siciliane al centro della pagina politica, ricordiamo si vota domenica, questa volta c'è il caso di Angelo Parisi, indicato dal candidato 5 Stelle e Cancelleri come delegato ai rifiuti in caso di vittoria a Palazzo d'Orléans. Ma l'esponente grillino è conosciuto anche come hater, ovvero autore di tweet shock pieni di odio, in cui se la prende con il capogruppo Dem alla Camera Ettore Rosato per il Rosatellum. Se questa legge sarà cassata dalla Consulta, si legge in questo tweet, noi ti bruceremo vivo. Seguono scuse e ammissione di essere andato oltre i limiti. E poi ci sono altri tweet velenosi destinati ai giornalisti. Immediata la replica di Rosato: non sono uno che si impressioni, mi impressiona, ma la frase ti bruceremo vivo mi fa male. Questa è meschinità umana. E anche Forza Italia si associa a Rosato e la Lega, va bene lo scontro politico, dice Massimiliano Fedriga, ma c'è un limite che non può essere oltrepassato. Sul fronte politico nazionale invece Silvio Berlusconi esce allo scoperto, è Antonio Tajani il candidato premier di Forza Italia. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sono indagati come possibili mandanti delle stragi di mafia del 92 e il 93 dalla Procura di Firenze. Così arriviamo anche a questo tema. Qualche ascoltatore ci ha scritto: ma perché non ne parlate? E io vi dico: ma perché non aspettate la fine di questa trasmissione? E se non abbiamo parlato di qualcosa, ci scrivete effettogiorno@radio24.it. Questo è dedicato all'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Non c'è pace per la verità e la giustizia su una delle pagine più buie, ancora non del tutto esplorate, della storia del Novecento italiano. Quel periodo tra maggio e luglio 1993, dove la mafia alzò il tiro contro lo Stato, organizzando attentati a Roma, Firenze, Roma ancora e Milano, con morti, feriti, chiese, opere d'arte distrutte o lesionate. L'ultima parte dell'inchiesta riguarda i presunti mandanti. Dopo le recenti dichiarazioni del boss Giuseppe Graviano, sono nuovamente indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Il fascicolo era già stato archiviato nel 2011, ma la Procura della Repubblica di Firenze lo ha riaperto nei giorni scorsi, delegando così nuovi accertamenti alla Direzione Investigativa Antimafia. Berlusconi mi ha chiesto questa cortesia e per questo c'è stata l'urgenza, dice Giuseppe Graviano mentre parla durante l'ora d'aria al suo amico Umberto Adinolfi, camorrista. Mentre i magistrati di Firenze riaprono il caso ai loro colleghi di Caltanissetta valutano le prossime mosse, dobbiamo dare ragione ai pentiti riscrivendo la storia della politica italiana dal 93 ad oggi, oppure dobbiamo verificare bene le parole dei pentiti che a volte parlano a scatti mnemonici? Così dunque Daniele Biacchessi nella sua analisi. Veniamo alla vicenda del Russia Gate, poi ne parleremo ampiamente ovviamente in America 24, ma le cronache di oggi. Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopoulos sono i tre nomi vicini a Donald Trump, ora messi sotto accusa nel Russiagate e che aprono un nuovo capitolo nello scandalo delle interferenze russe nelle elezioni americane che perseguita il presidente. Per Manafort e Gates sono scattati arresto e incriminazione ad opera del procuratore speciale che fa luce sul caso, Robert Mueller. Sono accusati di truffa fiscale, riciclaggio e violazione di norme sulla trasparenza nelle attività di lobby per paesi stranieri, in particolare leader ucraini pro-Mosca. I due hanno protestato in tribunale la loro innocenza, ma i reati attribuiti anzitutto a Manafort, l'ex manager della campagna elettorale di Trump, minacciano di intensificare la bufera sulla Casa Bianca. Papadopoulos, ex consigliere di politica estera, sta da parte sua già cooperando da alcuni mesi in segreto con gli inquirenti, dopo essersi riconosciuto colpevole di aver nascosto all'FBI contatti con emissari russi per ottenere informazioni che screditassero la rivale alle urne Hillary Clinton. I legali di Trump insistono che il presidente rimane al di sopra di ogni sospetto. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Il quadro dagli incendi in Val di Susa. La situazione in Piemonte migliora, anche se ci sono ancora roghi attivi, come confermano dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, con fronti di fuoco sia in provincia di Torino, in particolare a Gioveno, che in provincia di Cuneo. L'allerta dunque resta massima, gli operatori e i volontari sono sul territorio e l'attività principale in queste ore riguarda la bonifica delle aree, un'azione molto capillare che serve a spegnere ogni principio di fuoco nelle zone boschive di Pascolo, proprio per evitare che il ritorno del vento possa far ripartire i roghi. È stata riaperta anche la statale della Maddalena sin da ieri sera, dopo una settimana di blocco del traffico da e verso la Francia, proprio per questioni di sicurezza. L'emergenza dunque non è finita, ma la situazione è sotto controllo, ha ribadito questa mattina l'assessore all'ambiente della Regione Piemonte. Nei giorni scorsi si è parlato di circa 2.000 ettari andati in fumo, stima salita a quota 3.000, ma per avere un quadro preciso e una stima attendibile dei danni, ricorda la Regione, bisognerà aspettare di superare l'emergenza. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Andiamo a chiudere questa prima parte con lo sport, con il calcio e soprattutto con la Champions League. Questa sera in campo la Juventus e la Roma. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, ciao. Eccoci. A tutti. Sì, con la Champions League ma anche i riflessi di campionato, perché sì, ieri sera l'Inter un po' sotto silenzio perché il lunedì sera con la Champions che incombe ha vinto a Verona, partita brutta e sporca, come questa Inter sa fare, dunque 2-1 a Verona e l'Inter che si arrampica al secondo posto a 29 punti. Nessuno molla l'osso lì davanti per quanto riguarda il campionato. Per quanto riguarda invece la Champions, questa sera Juventus a Lisbona sul campo dello Sporting può centrare la qualificazione se vince e se l'Olympiacos non batte il Barcellona, cosa abbastanza improbabile, quindi risultato a portata di mano, bersaglio a portata di mano per la Juventus, sarebbe con due turni di anticipo. affascinante da morire la sfida dell'Olimpico, la Roma che riceve il Chelsea, è una partita molto importante perché vincendola la Roma si metterebbe benissimo per quanto riguarda il discorso qualificazione. All'andata, come ricordiamo, a Londra 3-3 con qualche rimpianto giallorosso, impresa fattibile per la Roma di Di Francesco. Vedremo cosa succederà stasera. Dunque, intanto, grazie a Carlo Genta, materiale buono per tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro d'Italia. Parleremo di parecchie cose oggi, andremo nelle Marche per le casette per i terremotati, non è arrivata nemmeno nessuna, c'è un'indagine della Procura e c'è un consorzio diffidato dalla Regione Marche che dovrebbe appunto produrre queste casette. Il caso di Visso è esemplare. Ne sono state ordinate 237, ne sono arrivate zero. Parleremo con Antonello Cracolici, l'assessore allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della Regione Sicilia. Perché? Perché in Sicilia si vota tra una settimana, indovinate un po', i 22.000 forestali hanno avuto un aumento di 80 euro al mese, i famosi forestali siciliani. Andremo a Roma. La conoscete Piazza del Popolo? Se sia che siate romani, sia che non lo siate, probabilmente l'avete vista e ce l'avete presente. Piazza del Popolo, con le sue due chiese gemelle, è stato completato il restauro di una delle due chiese gemelle e il tetto della cupola è di un colore diverso da quello dell'altra. Traffico, a tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e sempre la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, lo dico per magari gli ascoltatori che erano collegati prima, abbiamo avuto qualche problema tecnico, adesso la diretta video è stata ripristinata e se volete potete commentare anche là. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di banche, dei dati sull'occupazione, del crollo di un tunnel nucleare in Corea del Nord e dei timori di fuga di radioattività, della Catalogna, della conferenza stampa in corso di Puigdemont, del Russiagate e anche di Champions League. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e lo iniziamo dalle Marche, parlando in realtà un po' di quelle che sono tutte le aree che sono state colpite dal terremoto e di questo annoso problema delle casette, di questi moduli abitativi temporanei che dovrebbero accogliere le persone che non hanno una casa. Succede questo, succede che molte non sono state consegnate. C'è il caso esemplare di Visso, si diceva prima del traffico, con 237 casette ordinate e zero che ne sono arrivate. E su tutto questo, tra l'altro, verte un'inchiesta giudiziaria, appunto, nella quale si lavora anche sulla base di un coinvolto appunto anche un consorzio. Ci colleghiamo con Angelo Sciapichetti, assessore alla protezione civile della Regione Marche. Regione Marche che ha deciso di agire da questo punto di vista, se non sbaglio. Sciapichetti, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci spiega che cosa avete deciso di fare? Insomma, noi abbiamo più volte sollecitato le aziende che debbono installare le casette a rispettare i tempi contrattuali. Siccome abbiamo visto che ci sono e continuano ad esserci ritardi, abbiamo diffidato un'azienda, abbiamo chiesto loro di lavorare, raddoppiare i turni, lavorare anche di notte, sabato e domenica, perché dobbiamo assolutamente consegnare le casette agli aventi diritto prima possibile. Entro la fine dell'anno dobbiamo aver consegnato il grosso nelle Marche e siccome ci accorgiamo che mancano almeno la metà degli operai che ci vorrebbero, abbiamo preso tutte le iniziative che la legge ci consente per poter rispettare gli impegni che noi abbiamo preso nei confronti dei cittadini. 5.000 casette, o meglio, pardon, su oltre 5.000 persone che hanno bisogno di una casa, di una casetta, ne sono ospitate al momento solamente 600, no? No, i numeri nelle Marche sono diversi, 1.860 casette richieste, 260 consegnate, 1.588 sono in fase di allestimento nei 75 cantieri aperti, perché nelle Marche la vastità della distruzione è enorme, ci sono in questo momento 75 cantieri dove si sta lavorando per allestire la casetta. Avete ricevuto risposta da questo consorzio oppure no, Sciapichetti? Beh, insomma, abbiamo ricevuto risposte brande. Noi tutti i giorni andiamo sul posto, facciamo andare i sindaci, controlliamo ora per ora quello che sta avvenendo. Ci riserveremo ovviamente di applicare tutte le penali possibili che il contrattore prevede, ma in questo momento non ci interessa tanto applicare le penali quanto invece rispettare i tempi che ci eravamo dati per consegnare le casette a chi ne ha diritto. Il consorzio a un certo punto vi ha detto, mi sembra di aver capito, che l'esecuzione è impossibile e significativamente dannosa per la sicurezza dei lavoratori proprio per i turni, ho capito bene? Ma guarda, il consorzio non può accampare nessuna scusante, perché il consorzio sa dall'anno scorso quante casette dovevano essere allestite e conosceva anche i tempi e sapeva anche che per fare le aree di urbanizzazione nelle aree dove noi dobbiamo costruire le casette, cioè nel cuore dell'Appennino, dove ci sono zone scoscese, non siamo in pianura padana, per capirci, i tempi erano questi. Quindi il consorzio intanto impara a rispettare i tempi e poi dopo ne riparliamo. E questo è il punto. Tra l'altro, la vicenda, lo ricordiamo, come si diceva, ha una coda giudiziaria al momento, perché alcuni magistrati sospettano che ci sia un collegamento con tutta la vicenda Consip, per così dire, ma questa è altra questione. Noi non ci interessa. No, ovviamente, a voi interessa avere le casette. Non ci interessa, la magistratura faccia il suo dovere, e non ci interessa consegnare le casette. La ringrazio, grazie ad Angelo Sciapichetti, assessore alla protezione civile della Regione Marche, per averci aiutato a raccontare questa storia, e veniamo alla Sicilia dove si vota tra poco, come ben sapete. A questo stiamo dedicando tra l'altro un viaggio tutte le mattine nei GR, nei nostri viaggi di Radio 24, e a una settimana dal voto arriva la firma del rinnovo del contratto per 22.000 operai forestali, i famosi forestali siciliani. Costo complessivo 11 milioni e mezzo di euro, 80 euro in busta paga. Antonello Cracolici, assessore allo sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Sicilia, in linea con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno. C'è anche la foto di lei che firma l'accordo. Assessore Cracolici, da questa parte, cioè fuor dalla Sicilia, è difficile non vederla come una mancia elettorale, gliela dico proprio brutale, Sì, però dovrebbe anche sapere che fuor dalla Sicilia quel contratto che tanto da voi, come dire, produce indignazione è applicato da 5 anni in tutta Italia, cioè, quindi il vero problema è che da sette anni si applica un contratto nel resto d'Italia per i lavoratori forestali che non si è mai applicato in Sicilia. Quindi abbiamo semplicemente fatto un adeguamento delle tabelle contrattuali del contratto vigente per i lavoratori che si occupano appunto di forestazione o riassetto idraulico forestale come nel resto d'Italia, e in più abbiamo approvato un contratto integrativo che prevede di riconoscere una serie di diritti a lavoratori che l'ultimo contratto integrativo l'hanno avuto nel 2001, ovvero 16 anni fa, sì. Che pertanto, per capirci, consente, poiché siccome a differenza del resto d'Italia gran parte dei lavoratori che noi utilizziamo sono lavoratori giornalieri, quindi fanno 78 giornate in un anno o fanno 101 giornate in un anno o al massimo 151 giornate in un anno, questi lavoratori quando si ammalano, sì, o quando devono in qualche modo per periodi di ricovero perdevano anche le giornate di lavoro, e quindi abbiamo consentito loro di poter recuperare. Mi conferma il numero, perché qualche ascoltatore lo chiede, quanti sono? Sono 22.000. Quello che si chiedono agli ascoltatori è che cosa fanno queste persone, cioè dice fanno 78 giorni di lavoro all'anno, in questi giorni di lavoro cosa fanno queste 22.000 persone? Fanno quello che serve a evitare che le nostre montagne crollino, fanno quello che serve per fare forestazione in una terra molto particolare, dove abbiamo il dissesto idrogeologico, è uno dei problemi più gravi della nostra regione per la dimensione, diciamo, orografica del nostro territorio. Fanno quello che serve a impedire a fare la prevenzione per l'antincendio, cioè fanno quello che non si vede perché lavorano in montagna, ma che è molto utile a tutti noi, perché serve a creare patrimonio boschivo e quindi vegetazione, ossigeno, e serve anche a mantenere il nostro territorio. Se, lei sa, assessore, cosa si fa notare sempre in questi casi? Si fa notare che è il numero che è spropositato anche rispetto alla dimensione della regione. Intendo che... Mi scusi, per onestà, se noi utilizzassimo questi lavoratori o le giornate che noi utilizziamo in Sicilia per l'intero anno lavorativo, questi lavoratori in realtà non sarebbero 22.000, sarebbero circa 7.000. Perché diventano 22.000? Perché quello che farebbero 7.000 lavoratori se fossero assunti il 1 gennaio fino al 31 dicembre, lo fanno in realtà queste persone, che lo fanno per periodi dell'anno. Sì. Quindi in realtà il numero di addetti utilizzato per quantità di giornate è pari a 7.000. Siccome utilizziamo i lavoratori... Dove però in Lombardia sono 700, in Veneto 500... Guardi, questo è vero fino a un certo punto, perché in alcune regioni le attività di forestazione sono sostanzialmente affidate a privati, cioè sono fatte attraverso appalti e quindi vengono utilizzati col sistema degli... La Sicilia, per la verità non da parte del nostro governo, ma da molti anni, ha utilizzato, diciamo, i lavori in economia, cioè facendo la stessa regione essendo datore di lavoro, e quindi svolge queste attività come in altre regioni lo svolgono. Che so, in Calabria c'è un'azienda pubblica, o in Sardegna c'è una società costituita appositamente dalla regione sarda. La Sicilia invece il datore di lavoro è la regione, è la regione Sicilia. Però, ecco, come dire, saranno in attesa da 5 anni, e questo glielo ribadisco, assessore, mi scusi, saranno in attesa da 5 anni di questo contratto, però del rinnovo, diciamo, viene firmato a una settimana dal voto, abbia pazienza. No, mi scusi, però sai, i contratti non è che si firmano soltanto il giorno prima. Tenga conto che noi questo tavolo, perché abbiamo dovuto rifare il contratto integrativo, questo tavolo lo abbiamo aperto a gennaio del 2017, che è fatto un confronto con le organizzazioni sindacali e la struttura amministrativa, si è andati avanti. A settembre abbiamo approvato in giunta la bozza di contratto, e quindi la giunta ha autorizzato me come assessore all'agricoltura e l'assessore al territorio a chiudere il contratto. Abbiamo avuto il via libera della ragioneria della regione per quanto riguarda le coperture finanziarie, e formalmente abbiamo chiuso adesso, ma non è che il contratto lo abbiamo aperto adesso. Noi a gennaio abbiamo avviato le procedure per adeguare il contratto integrativo e adeguare, diciamo, i salari dei lavoratori. Quindi se poi si è chiuso formalmente il 30 ottobre è anche connesso purtroppo a una gestione burocratica amministrativa, che una cosa che si può fare spesso in un giorno si fa in un mese. Grazie Antonello Cracolici, anche se vedo che non ha convinto i molti ascoltatori che ci stanno scrivendo. Grazie Antonello Cracolici per aver accettato il nostro invito, assessore allo sviluppo rurale e pesca mediterranea della regione Sicilia. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo per parlare di questa vicenda di Roma e delle due cupole delle cosiddette chiese gemelle, che sono in realtà due cupole diverse, si è scoperto dopo il restauro. E poi abbiamo tanto parlato della vicenda dei tifosi laziali che hanno distribuito le figurine di Anna Frank. Domenica scorsa sul campo della Lucchese è successa un'altra cosa. È successo questo: è stato portato un deportato a portare la sua testimonianza sul campo, a raccontarla al microfono ai tifosi, a chi era sugli spalti. Ebbene, quelli della curva della Lucchese sono spariti nel nulla, si sono presentati dopo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: banche, la nuova difesa del governatore Visco, vigilanza ferma e intensa. L'ABI dice chiudere le inchieste e voltare pagina. Stabile l'occupazione in settembre, scendono i contratti a tempo indeterminato, risale la disoccupazione giovanile. Da Bruxelles parla l'ex presidente catalano, a questo punto Puigdemont, che chiede l'Europa reagisca. Non sono qui per chiedere asilo politico, se fosse garantito un giusto processo tornerei. Crolla un tunnel in un sito nucleare in Corea del Nord, ci sarebbero 200 morti, timori di fuga di radioattività. Russia Gate, metà dell'elettorato americano avrebbe visto su Facebook messaggi di propaganda di origine russa. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Birra Antoniana. In ogni birra, una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, l'immagine, la foto sta facendo il giro, sta girando tra i romani e non solo tra loro, ed è la foto di Piazza del Popolo, nota non solamente ai romani ma a molti turisti. È la chiesa, la piazza davanti alla quale c'è Villa Borghese, che, dalla quale parte la strada, per intenderci, che poi porta verso il centro, la parte del centro storico. È parte del centro storico, e ci sono queste due chiese che sono le due chiese gemelle cosiddette. Sono la chiesa di Santa Maria in Montesanto, che è detta anche la chiesa degli artisti, e Santa Maria dei Miracoli, tra via del Corso e via di Ripetta. Ebbene, quando è stata scoperta una di queste due chiese dopo i lavori di restauro, ci si è accorto che le due cupole delle due chiese gemelle sono di colori diversi. Sono una sul bianco tendenzialmente e una più o meno sull'azzurro, o meglio sull'ardesia, e questo ha fatto alzare il sopracciglio a qualcuno. Siamo con Luca Del Fra, che ha detto stampa della soprintendenza speciale di Roma. Buongiorno Del Fra, non sono più gemelle queste due chiese? Ma intanto le chiese gemelle possiamo dire che non sono proprio gemelle omozigote, una è a pianta circolare, una è a pianta ovale, quindi tra loro hanno delle differenze. La cosa che più mi diverte di questa faccenda è solo oggi si è scoperto che le due cupole sono di colore diverso. In realtà sono di colore diverso da 4-5 anni, cioè da quando c'è stato il restauro di Santa Maria in Montesanto, perché se si vogliono ottenere due cupole dello stesso colore e con lo stesso tipo di restauro, il restauro va fatto in una volta sola. Non ci si può aspettare che due restauri a distanza di questi anni diano un risultato identico. Sì. Ora, sì, ma qua sono proprio i materiali che sono diversi qua, però, Del Fra, no? No, il materiale... I colori sono diversi. Il materiale è sempre l'ardesia, che è stata messa lì ai tempi di Leone XIII nel 1825, che sostituiva il tetto originale fatto da Bernini e Fontana nell'ultimo scorcio del Seicento. È il trattamento che è leggermente diverso, nel senso che in primo è stato un trattamento, quello su Santa Maria in Montesanto, fatto a partire dal 2011, è stato un lungo restauro che ha riguardato l'interno della chiesa soprattutto, gli affreschi, e la parte che riguardava il tetto si è badato soprattutto, anche per una questione di fondi, a una corretta impermeabilizzazione. Nel secondo caso... Quindi la brutalizzo, non c'erano i soldi e si è fatto un restauro più che altro per evitare che ci piovesse dentro, alla bruta. Diciamo, per evitare, non tenendo il colore originale, non tenendo quello che doveva essere il colore originale. Diciamo che se piovesse è eccessivo, infiltrazioni d'acqua, diciamo, che sono già comunque molto pericolose per gli affreschi, come si può immaginare. La seconda cupola, che è stata restaurata adesso, invece ripropone attraverso dei pigmenti colorazione che assomiglia a quella dell'ardesia, anzi che è quella dell'ardesia, che sarebbe quella originale, quella corretta. Guardi che la teoria del restauro non è come la matematica, dove 2 fa 4. Questo è comprensibile, diciamo. E grandi teorici del restauro dicono una cosa molto bella: ogni restauro è funzionale all'epoca in cui viene fatto. Diciamo che questa colorazione nasce da una perizia fatta alcuni anni fa, in cui si è stabilito che questo colore fosse quello più consono a ridare... Mi faccio arrivare a un punto. Allora, lasciamo stare il post-restauro di una delle due. Però, guardi che le due chiese... Dieci anni fa i colori erano uguali oppure no? Io ho mandato una serie di fotografie alla sua collega, sì, alla dottoressa Lucchetti, sì, facendole vedere proprio l'evoluzione, sì, nelle varie fasi. Dieci anni fa. Ma se la domanda, dato che le foto non le possiamo far vedere in radio, 10 anni fa queste cupole erano uguali oppure no, come colori? Si somigliavano di più. Io si penso somigliavano una cosa, ecco. Santa Maria dei Miracoli, forse un miracolo può farlo. E far arrivare i soldi per fargli gli stessi colori. Ma quelli non sono miracoli, quelli sono quattrini che devono arrivare. Comunque, io ai miracoli non ci credo un granché. Vedremo se arriveranno questi soldi. Grazie intanto a Luca Del Fra, della Soprintendenza Speciale di Roma. Abbiamo solo un paio di minuti con Carlo Bini. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. E vediamo se riusciamo a spiegarla rapidamente. Allora, Carlo Bini è amministratore unico della Lucchese Calcio. Che cosa ha fatto? Ha portato nella giornata di domenica, una giornata particolare perché arriva dopo tutte le polemiche per le figurine di Anna Frank diffuse dai tifosi laziali, ha portato un deportato di Lucca in campo, un ex deportato, 98 anni, di anni 98, che è venuto a raccontare la sua storia in campo. E la curva, che alcuni dicono essere monopolizzata da Casa Pound, si è svuotata, o meglio, non si è mai riempita. Ho capito bene? Allora, questa è un'interpretazione molto di parte. Allora, è chiaro, no? Chiaramente, tanto in Italia siamo ancora una Repubblica libera, dove la gente può fare quello che vuole, basta che non rompa le scatole agli altri. D'accordo? Partiamo da questo. Io ho portato questo 98enne in campo, un 98enne con un bastone, che ci vuole un bel po' di tempo per andare e tornare. Abbiamo fatto il minuto di accoglimento, abbiamo letto il messaggio di Anna Frank e le persone presenti hanno tutto applaudito. La curva è entrata alle 8:30, alle 8:25 il momento che cominciava la partita. Ma non ci vedo, io sinceramente non ci voglio vedere nulla. Mio padre, dopo l'8 settembre, è stato un anno e mezzo deportato in campo di concentramento in Germania. Vedo perché era un antifascista, indipendentemente dal fatto se no non lo portavano via. E io vedo che se uno siamo ancora in un paese libero, peggio sarebbe stato se qualcuno è muto di accoglimento o qualcosa avesse fatto cose veramente oscene o criticabili. Avesse contestato. Quindi lei non ci vede niente di male in questa. Voglio vedere. Lucca è una città tranquilla, una piccola città di provincia dove non succede mai nulla, dove le minoranze religiose o etniche non sono mai state per nulla un problema. Cioè qui si vuole creare un problema nel problema. Lucca è la prima città del volontariato in Italia. Lucca è una città libera. C'è scritto libertà fuori dalle mura. Sì. Da notare su questo anche il comunicato della curva, che dice: non abbiamo ostacolato, boicottato, contestato un'iniziativa che però definisce politica imposta dalla Lega, ed è la testimonianza di un deportato. Comunque, così è. Grazie Bini, le auguro buona giornata. All'ascoltatore che dice basta Spezia, non ne azzecchi una, che credevo di non è strettamente necessario ascoltare. Traffico, Platero, a tra poco.